E invito chi è fuori a prendere posto in sala. Intanto incominciamo con presentare gli ospiti di questa presentazione. Abbiamo invitato Salvatore Cannavò, giornalista, scrittore, editore di Alegre, che ha scritto questo libro importante, molto importante oggi più che mai, intitolato Mutualismo. Ritorno al futuro per la sinistra, il mutualismo che ci premeva molto in portare qua in polveriera questo libro, perché qua tanto si è ragionato e si è cercato di riflettere sull'importanza del mutuo aiuto, del mutuo appoggio e delle pratiche di autogestione. Affrontare l'argomento, andare in profondità, abbiamo invitato a dialogare con Salvatore, Francesco Valente, filosofo e attivista che partecipa all'esperienza di Mondeggi, l'occupazione agricola di Mondeggi Bene Comune. E quindi benvenuti intanto, grazie di essere qua. Scusate il leggero ritardo, che vabbè, ci portiamo sempre un po' dietro. Ma come dicevo, appunto, libro molto importante secondo me, perché riflette e cerca di porre le basi per trovare un orizzonte che non si può dire nuovo, ma che va ricostruito per la sinistra, per chi lotta e per chi lavora, per chi vive in questa società che non ha o che ha perso gli strumenti per lottare, per portare avanti. Mi sono incartato, però insomma, dicevo, da un orizzonte cerca di offrire per una riflessione, un'analisi per dare un orizzonte nuovo a una sinistra, per ricostituire una sinistra. Quindi niente, io lascerei la parola a voi per parlare di questo libro e non solo, appunto, per affrontare questi temi. Va bene, allora comincio io. Senza microfono mi sentite? No, ma si registra. Ecco dove mi fregano sempre. Capito perché vorrei evitare. Vabbè. Dunque, sì, è un libro ovviamente che parla del mutualismo, naturalmente del mutualismo, che è quella nel senso dell'organizzazione degli esponenti, dei soggetti, delle classi popolari che tentano di ovviare ai disagi di una società organizzata capitalisticamente, o comunque in una situazione di egemonia del liberalismo. Ci sono stati anche, naturalmente il mutualismo non nasce all'interno del capitalismo o in presenza del capitalismo, naturalmente può rimontare altre forme di mutualismo, posso rimontare a ben prima, soprattutto ne conosciamo molte in epoca medievale, però naturalmente da qui il libro si concentra su quelli che soprattutto in Italia hanno avuto il loro battesimo nella seconda metà dell'Ottocento. E si sofferma parecchio sulle origini del mutualismo l'autore, non solo perché tende a descrivere questo fenomeno, analizzarlo storicamente, quindi deve dare ragione della sua formazione, ma perché alle origini si delinea e si definisce una sorta di divaricazione tra l'esigenza, un'esigenza socio-economica e un'esigenza socio-politica e politica più eminentemente, che è portata avanti dai soggetti e dalla novità alle associazioni mutualistiche. Sostanzialmente infatti il mutualismo è, risponde a un'esigenza da una parte di solidarietà e quindi interviene in una situazione di crisi dell'associato, quando per esempio viene licenziato per le spese del proprio funerale, per tutta una serie di manifestazioni che la scarsissima o inesistente capacità di risparmio delle classi povere, almeno fino a un certo periodo, non a quale impedisce di far fronte. E poi l'esigenza della resistenza rispetto all'offensiva padronale, quindi la resistenza sul posto di lavoro, il sostegno degli scioperi, per esempio, no? Quindi questa esigenza di sostegno e assistenza socio-economica e l'altra di sostegno e assistenza più eminentemente politica, che in una declinazione del mutualismo, che in una linea del mutualismo tende a tenere in qualche modo unite, un altro tipo di schema invece tende, un altro tipo di linea tende a separarle, e assegnando per esempio l'ambito socio-economico a quello che poi diventerà, tramite le cooperative di produzione, diventerà anche il sindacato, e assegnando invece l'ambito politico a quello che poi diventerà il partito. Naturalmente questo schema, con il sindacato naturalmente in funzione subordinata rispetto al partito, questo tipo di schema, come ognuno sa, sarà vincente rispetto, egemone nel decorso storico rispetto all'altro. Se vogliamo in qualche modo trovarne un emblema di questa linea, egemone, come segnala anche Annavolo, possiamo trovare senz'altro in Togliatti nel togliattismo. Per contrasto, se vogliamo trovare invece un rappresentante, detto molto tra virgolette, della linea opposta o che si rifà o a cui il mutualismo poteva rifarsi, potremmo pensare a Gramsci, e comunque a una linea consigliarista che tende appunto a ricomporre questi termini, ripeto, il socio-economico e il politico, l'impegno nel sociale e la rappresentanza politica o la resistenza più eminentemente politica. Che queste posizioni si siano che siano stati presenti, che abbiano in qualche maniera definito una diversità d'approccio su questo, io sono personalmente sono d'accordo, alle origini intendo dire, personalmente sono d'accordo. Per quanto riguarda il fatto che la loro differenza sia così profondamente marcata, come qualcuno, ora non so se Cannavò, perché naturalmente non era questo un tema centrale del libro, quindi lui non tratta questo, ma sicuramente qualcuno tende a fare, non so se appunto questa differenza sia così fondamentale, perché tendo a mettere l'accento personalmente su un altro fatto, su una subalternità a mio avviso culturale, che ha denotato tutta la critica radicale di sinistra, diciamo, quindi sia la linea più consigliarista, chiamiamola così, per comodità d'esposizione, e il modello tedesco, come viene chiamato, no? In cui il partito diventa più preminente, e quindi l'ambito politico diventa più assume un primato. La subalternità, quella che chiamo subalternità, è definita rispetto ai fondamenti di sistema. non tutta la critica di sinistra dalla fondazione e nel corso del suo sviluppo, per esempio, non ritiene che la scienza sia qualcosa di neutro e di universalmente umano. L'organizzazione della produzione anche, fondamentalmente. Ritiene che lo Stato sia un'organizzazione che viene sfruttata da una determinata classe per opprimere un'altra, ma non è un qualcosa che porta in sé una caratterizzazione di dominio. C'è una dichiarazione, tra l'altro, nel libro riportata, per esempio, del consiglio operaio della Fiat durante le occupazioni, credo sia proprio del settembre del 20, quella dichiarazione, in cui dice: operai, dimostriamo che la fabbrica può andare avanti anche senza padroni. Ecco, intendo dire questo. Anche per una realtà di sinistra di critica così radicale e così conflittuale, il problema non è la fabbrica, è la direzione della fabbrica, è il padronato. Non passa nemmeno per l'anticamera del cervello a quell'operaio di mestiere lì che sia la fabbrica sia il problema, non il fatto di come venga gestita. Altro esempio che è stato più volte ripreso: il problema non tende a essere il palazzo d'inverno, il problema tende a essere chi lo occupa, per cui nella rivoluzione del 17 io devo spodestare chi c'è dentro, non tanto abbatterlo, metaforicamente anche, intendo dire, no, io devo conquistarlo il potere, non devo cercare di eliminarlo o di rifondarlo proprio dalle fondamenta. E non, c'è questa subalternità, per esempio la cultura non è, anche per lo stesso Gramsci in questo caso, la cultura non è una cultura borghese, operaia o comunque in qualche modo fenomenologicamente o storicamente caratterizzabile, è la cultura umana in genere. Questo approccio fa sì che fondamentalmente, a mio avviso, per la lettura che ne do, fa sì che una cultura radicale molto conflittuale non riesca ad affermarsi fondamentalmente come realmente alternativa, come costitutiva di un ordine sociale completamente diverso e radicalmente diverso. E quindi, voglio dire, anche una linea che tende a ricomporre quella compartimentazione, come la chiama nel libro, alle origini del movimento, nella prima fase del mutualismo, poi alla fine non può comunque, anche avesse vinto per un qualche caso storico l'altra linea, comunque a mio avviso l'esito non sarebbe stato comunque diverso da un punto di vista generale. Perché sto facendo tutto questo pistolotto su questa storia che apparentemente è piuttosto estrinseca rispetto all'argomento specifico del libro? Perché secondo me noi, rispetto al problema che segnala questo libro, cioè di questa divaricazione tra i vari aspetti, il politico e il socio-economico, noi siamo ancora lì. Fondamentalmente noi non abbiamo superato in niente tutta una serie di problematiche. Se il consiglio di fabbrica della Fiat all'epoca diceva appunto dimostriamo che la fabbrica può andare avanti anche senza il padronato, io vengo da Mondeggi, bene comune, come è stato sottolineato, la dizione completa di Mondeggi bene comune è: Mondeggi bene comune, fattoria senza padroni. Si dà l'idea quindi che il problema non sia la fattoria ma che siano i padroni. Si dà l'idea che una volta esautorati in un modo o in un altro i padroni, insomma, si sia già un pezzo avanti, che è la stessa cosa e può passare in tutte le altre esperienze che Salvatore insomma elenca con molta precisione, nel senso Rimaflo è fuori mercato in qualche maniera, non danno l'idea che sia possibile che si sia un pezzo avanti una volta che siamo riusciti a eliminare il discorso del padronato lungo la catena del circuito commerciale, dei passaggi commerciali. Quello che voglio su cui voglio porre l'accento è appunto questo. Se per Lenin il comunismo è l'elettrificazione più i soviet, ora naturalmente i soviet dopo pochissimo vengono totalmente snaturati e voglio dire messi da parte, ma l'elettrificazione rimane. L'elettrificazione non è un'elettrificazione borghese, capitalistica, liberista, liberale. L'elettrificazione è l'elettrificazione, il progresso umano in generale. Noi siamo ancora alle prese con questi miti, secondo noi, nel senso di io, la sinistra in generale, la critica radicale per meglio dire, perché se la sinistra oggi si rischia di far parecchia, di far parecchia confusione, sta ancora alle prese con questi equivoci, con questa mitologia. Per esempio, se noi prendiamo le espressioni di quello che potrebbe essere un mutualismo contemporaneo o una attuazione di una critica radicale, quindi diciamo anticapitalistica, e per esempio andiamo a visitare ora Riscito, Rimaflo, Mondeggi, Bene Comune, o SOS Rosarno, o Sfrutta Zero, sicuramente noi, chiunque di noi ci va, si trova in presenza indubbiamente di spezzoni di organizzazione anticapitalista in atto. Su questo non c'è dubbio, nel senso lì, da un punto di vista di organizzazione sociale, di organizzazione della produzione, di produzione e di gestione della cosa, non c'è niente che possa richiamare il capitalismo, c'è molto che invece è in aperto contrasto. Però nel momento in cui ci si chiede dove va a finire la produzione di Sfrutta Zero, dove va a finire quella di Rimaflo, dove va a finire quella di Mondeggi, ecco, se l'anticapitalismo sociale, l'anticapitalismo politico è in atto, l'anticapitalismo economico dov'è? Perché Dio, la produzione di Mondeggi, di queste istanze alternative, di fatto sul mercato va a finire. Che poi vada a finire su un settore di mercato sedicente alternativo e che quindi occupa indubbiamente una posizione marginale e periferica e quindi anche di nicchia se vogliamo, ma di fatto non è esterna al mercato, e questa per noi è una contraddizione enorme, perché noi ripeto, siamo ancora lì, noi non abbiamo in realtà un progetto politico che possa caratterizzarsi per una alternità, tantomeno congenita come quella per usare l'espressione che usa Salvatore nel suo libro. E non solo non ce l'abbiamo, ma purtroppo non abbiamo nessuna intenzione di parlarne, perché è un argomento difficile, perché bisognerebbe mettersi parecchio in discussione per tutta una serie di motivi, però questo fatto è secondo me decisivo. Questo ci impedisce fondamentalmente di avere e di proporre un progetto di alternativa di sistema, perché noi su un aspetto siamo assolutamente alla retroguardia, siamo assolutamente afasici, noi non possiamo di nulla sull'argomento, ed è questo che ci mette nelle condizioni di non essere neanche riconoscibili e di non essere neanche credibili, insomma, diciamo. Noi siamo in grado, noi io in generale come movimento, siamo in grado di mobilitare una valle intera su un progetto che è uno scandalo razionale e nazionale. E voglio dire, siamo riusciti a esautorare tutta la rappresentanza politica, non so quanti siano i paesi in cui ancora esistono i partiti normali, sono tutte liste civiche e si rifanno ai notav, quindi la rappresentanza politica è completamente esplosa, il tessuto sociale ha avuto un rinnovamento e non sarà, ma comunque voglio dire il movimento ha importato una capacità e una possibilità di relazione sociale decisamente diverse e decisamente altre. Bene, e in tutta la Val di Susa c'è un minimo angolo che funziona in maniera diversa. Qualcuno non si alza per andare a lavorare, non per fare attività, per andare a lavorare. E lavorare, il lavoro non è un'attività umana che c'è da sempre. Il lavoro è qualcosa di specificamente legato a questo sistema di organizzazione sociale, a questo sistema di produzione. In Val di Susa tutti si alzano come prima per andare a lavorare, tutti prendono soldi come prima e ce la fa, tutti vanno dall'alimentare e pagano secondo il prezzo di mercato il chilo di pane come prima. Morale della favola: una valle in mobilitata non ha sedimentato, da un punto di vista di alternativa reale, non ha sedimentato 0,1, non ha sedimentato niente da questo punto di vista, perché la valle, come tutto il movimento, non ha un progetto alternativo reale. Quindi, perché sono stato contento anche di venire a presentare, insomma di fornire un contributo, voglio dire, alla presentazione di questo libro. Perché questo libro sicuramente le acque le agita su questo tema e ne costruisce anche la genealogia, la ricostruisce da dove viene dagli inizi questa cosa, questa contraddizione, questo, per cui veramente ben venga. E quindi va bene con questa suggestione o questo spunto, insomma, se vogliamo, che poi raccoglierà più o meno, insomma, chiaramente, se vorrà Salvatore, gli cedo la parola, non prima di aver consegnato alla storia una frase che penso che sintetizzi quello che voglio dire, e cioè il fatto che dobbiamo costruire, l'alternativa è costruire il problema è costruire alternative all'esistente, non alternative dell'esistente. Ma, allora, intanto buonasera e grazie dell'invito, e devo dire che Francesco l'ha messa molto alta l'introduzione, e mi costringe poi a fare un intervento, però lo faccio più avanti, all'inizio cerco di fare un intervento più semplice, diciamo, in certi versi, o comunque più descrittivo, anche per spiegare perché poi alla fine ci si arriva a quello che tu poni, perché è il problema dei problemi, quindi la strategia, qual è la capacità di progettare un'alternativa all'esistente. Il libro, intanto, è una battuta, diciamo, quando abbiamo titolato il libro abbiamo scelto di titolarlo Mutualismo e di non mettere nel titolo, l'abbiamo messo nel sottotitolo, perché comunque di non mettere nel titolo la parola sinistra, perché è una parola sinistra, appunto, perché ormai questa parola è troppo defraudata, possiamo dire così, o comunque ognuno può usare l'aggettivo che crede. E in qualche modo l'idea di fondo è proprio questa: può servire una riflessione su una fase molto antica del movimento operaio a qualcosa che serve oggi e quindi è al futuro? L'ambizione del libro sì. L'ambizione del libro è proprio questa, e io uso questa espressione per spiegare perché. Perché in quel periodo, diciamo almeno in quello circoscritto tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si può rintracciare un codice sorgente che alimenta una serie di intuizioni e una serie di strumenti che possono servire oggi per uscire. Sarebbe troppo ottimistico per uscire, ma io tendenzialmente sono ottimista, però per provare a imboccare una strada che ci porti fuori dal pantano in cui siamo finiti, che non è un pantano, diciamo, di breve, cioè di piccole dimensioni. La drammaticità del tempo in cui viviamo è evidente anche da quello che ci sta succedendo intorno, no? Adesso non facciamo una discussione politica sui governi che si formano e le mostruosità a cui ci dobbiamo confrontare nel prossimo periodo. Però il libro non a caso si apre con un capitolo che si chiama in maniera molto definitiva e molto netta la fine del movimento operaio. Nel senso che noi siamo in una fase in cui questa cosa è successa un po' di tempo fa e ancora oggi non tutti se ne sono resi conto, che proprio un periodo storico ma lungo di più di un secolo si è proprio concluso, e per movimento operaio, ovviamente guardando al passato quando questa espressione significava qualcosa, oggi ovviamente non potrebbe essere riproposta in questi termini, per movimento operaio intendiamo l'immaginario complessivo, la forza strutturale, i sindacati, le cooperative, la cultura, il cinema, tutto, cioè tutto quello che ha rappresentato un riconoscimento di sé, un riconoscersi, una soggettività. Questa è una strutturazione, una complessità, una soggettività che si è esaurita. Però noi uso sempre questo esempio. È come con le stelle che si spengono. Le stelle si spengono e però emanano luce ancora per miliardi di anni. Questa stella si è spenta un sacco di tempo fa, decenni fa, e per tantissimi anni la sinistra intesa in senso lato, perché usiamo per comodità usiamo questo termine, non si è assolutamente resa conto. Io credo che ci siano ancora diversi pezzi di sinistra più politica, istituzionale, incancrenita su se stessa, che ancora non si è resa conto che la stella si è spenta e che quella che ogni tanto si vede qua e là è solo la luce di una cosa che non c'è più, e che siamo in una fase in cui la ricostruzione da capo delle idee e delle pratiche è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo, a tutti i livelli. Come ricostruiamo? Cosa ricostruiamo? L'idea del libro è: andiamo a rivedere appunto se c'è un codice sorgente per poter elaborare dei nuovi algoritmi e poter quindi riprogettare un futuro che abbia un qualche significato. Detto questo, però, l'interesse e l'attrazione per il termine mutualismo, che può essere respingente, appunto può essere anche noioso, però personalmente non mi è venuto andando a guardare i libri, quello è venuto dopo. Primo interesse è stato proprio invece le esperienze che nel libro sono descritte, sono un po' raccontate sinteticamente ovviamente, le mondeggi, le rimaflo, l'ex OPG, il sfrutta zero, eccetera eccetera. Ne sono una decina, una quindicina citate, e poi soprattutto quello che succede nel mondo, l'esperienza dei Senterra, l'esperienza di Solidarity for All in Grecia, eccetera, e altre cose dicendo. E quindi individuando alcuni elementi di questo codice sorgente che vorrei riassumere in questi quattro aspetti, che credo che appunto ci possano dare della linfa, ci possono dare del nutrimento per quello che serve. Il primo è che cosa è successo in quel momento in cui tutto ebbe inizio? Che il movimento operaio di allora, sorgente, che si trovava di fronte a un capitalismo aggressivo, molto più aggressivo di quello attuale, perché ti sparava contro e quindi ti decimava, quello che è successo è che nel fare mutualismo si è sperimentato per la prima volta in maniera strutturata, e qui ci sono delle citazioni belle, secondo me, di Rodotà, che individua nella solidarietà un elemento strutturale del fondamento della Repubblica, della cosa pubblica. Si è individuata la solidarietà come elemento costitutivo appunto di quel movimento che stava sorgendo e stava nascente ed era nascente. La solidarietà come elemento connettivo, quindi non come elemento portato dall'esterno da qualcuno, poteva essere la Chiesa, poteva essere il primo mutualismo, quello filantropo, ma la solidarietà come espressione di organizzazione della classe operaia nascente. Una solidarietà che era per, e quindi che si dava una mano nel cercare nelle società di mutuo soccorso, per esempio con l'educazione, per esempio con l'aiuto ai figli, eccetera, ma che rapidamente, di fronte a quel capitalismo mostruoso, diventa anche una solidarietà contro, quindi una solidarietà di resistenza. E l'intreccio tra questi due elementi, solidarietà per, solidarietà contro, costruisce un impasto positivo, un'amalgama, che produce soggettività. Cioè ci si riconosce gli uni con gli altri, ci si costruisce un elemento di affermazione nel mondo reale, nell'esistente, quindi di la controparte inizia a essere individuata chiaramente, ma soprattutto iniziano a essere individuati i propri compagni di battaglia, le proprie compagne, perché c'è un fenomeno di solidarietà, per esempio nei primi movimenti femminili, che sono fondamentali, le mondine. Sebbene che siamo donne, paura non abbiamo, e in Lega ci mettiamo. È un canto fondamentale, formidabile da questo punto di vista. In Lega ci mettiamo, quando la Lega era il legarsi l'uno con gli altri e non era quella roba indecente che è adesso, che appunto conosciamo noi, ovviamente, sono due cose diverse, adesso è una battuta questa. Quindi la solidarietà come costruzione di una soggettività reciproca, e questo è un elemento fondamentale. Se ci pensiamo oggi, cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che stanno espungendo dalla Repubblica, appunto, dal discorso collettivo, dal discorso costitutivo della Repubblica, la solidarietà. Quando si teorizza che non si può avere quando si teorizza quello che si è teorizzato negli ultimi anni sui migranti, e noi la faccio lunga, e non c'era bisogno di arrivare alla Lega, perché è stato sufficiente Minniti e poi prima ancora la Turco-Napolitana, eccetera, eccetera, eccetera. Quando si vede tutto questo, ci si rende conto che è la solidarietà che oggi ci serve per rimettere a fuoco anche un modo di stare in un tempo difficile come quello che abbiamo davanti. È un elemento costitutivo di una ricostruzione del nostro stare insieme, della costruzione dei nostri luoghi, delle nostre pratiche e anche di elementi di produzione, perché fuori mercato è un modo di produrre in maniera embrionale, in maniera quasi elementare, però con un meccanismo di solidarietà. Questo credo sarà un elemento centrale in tutta la fase che ci si apre. Adesso faccio un po' di digressione nella politica, perché è impossibile non farle. Sarà un elemento fondamentale, perché succederà qualcosa del genere. Quando questi diranno, perché in questo programma di merda, scusate l'espressione, e in questo governo di merda che sta per nascere, però ci sono un sacco di cose che parleranno tantissimo alle persone, a noi, a quelli che stanno con noi, a quelli che noi vogliamo, a quelli che noi pensiamo siano con noi. E a quelle persone a un certo punto verrà proposto uno scambio: ti tolgo la Fornero e ti mando in pensione, ti do il reddito di cittadinanza, ti do una serie di altre cose, cerco di uscire fuori dai parametri di Maastricht, però se sgombro i campi Rom, però se gli immigrati non vanno all'asilo nido, te lo devi far piacere, ce lo si farà piacere. Cioè, questo è lo scambio infame in qualche modo che verrà proposto e che rischierà di essere vincente. L'unico antidoto che c'è contro questo è che la solidarietà invece per noi è un valore inalienabile, invalicabile, perché è l'unico elemento che ci garantisce a noi stessi, cioè è l'unico elemento che ci dà una prospettiva di futuro. E lì nasce questa chiave. Poi c'è un secondo elemento, però, e qui mi avvicino alle tue argomentazioni. Il secondo elemento è quello appena citato, no? La solidarietà per si sposa con la solidarietà contro. Si fanno le società di mutuo soccorso, ma a un certo punto vengono utilizzate anche per fare i picchetti, per dare una mano ai picchetti operai, per costruire i primi scioperi, succede in Italia, succede in Francia, per costruire le lotte e le resistenze. Quel mutualismo è immediatamente conflittuale, è immediatamente un mutualismo che esce dai confini della filantropia o della carità e diventa uno strumento di agitazione politica e di soggettività politica. Politica nel senso lato del termine. Poi succede un'altra cosa, ovviamente, tu l'hai citato, succede che l'evoluzione del movimento operaio, il suo nazionalismo, cioè il nazionalismo, il suo farsi Stato, produce quella separazione che è conosciuta come modello tedesco, per cui nasce il partito che diventa il partito elettorale e ha le caratteristiche tipiche del partito elettorale, al sindacato viene conferito il ruolo di essere lo strumento sociale e si costruiscono le due gambe del movimento operaio in tutto il Novecento, distinguendo in maniera, secondo me, troppo netta e con una costruzione dall'alto, una distinzione a volte invalicabile tra il sociale e il politico, come se il sociale dovesse sempre stare un piano sotto e il politico un piano sopra. Poi arriva il movimento comunista, lo stalinismo, eccetera, eccetera, si compie il capolavoro, diciamo, del casino, per cui arriva il partito guida, che è il politico superiore a tutto, e tutto il resto viene sotto e deve venire di conseguenza. Ecco, tutto questo invece nel movimento operaio degli inizi, nel mutualismo degli inizi, non c'è, o perlomeno è il sociale che nel momento in cui si costruisce come nel momento in cui scopre la solidarietà, costruisce la sua dimensione politica, e quella solidarietà permette appunto di evitare una divaricazione, una distinzione tra i due elementi, ma il farsi sociale immediatamente è politico e produce anche la capacità di guardare anche i più in prospettiva, di guardare, e adesso ci arrivo, di guardare a una costruzione di una società anche alternativa. Quindi dicevo, però, in tutto questo costruzione, il mutualismo è conflittuale. E il momento in cui è conflittuale, appunto, è politico, nelle caratteristiche che ho detto. Questo è un elemento importante, per cui non può essere inteso il mutualismo come l'obiettivo in sé. Cioè non è che noi facciamo mutualismo perché dobbiamo fare le cooperative e così abbiamo risolto il problema. Noi facciamo le cooperative o facciamo l'autogestione perché vogliamo darci gli strumenti che producano conflitto, che allarghino il conflitto. Faccio questo esempio. Sono stato a Bari a presentare il libro e io Sfrutta Zero la conoscevo, però questa realtà che vi sto per dire l'ho vista solo lì. Cioè Sfrutta Zero nasce facendo la salsa di pomodoro con gli immigrati. Prima operazione che si viene fatta. Non paghiamo più gli immigrati che stavano nei campi di Nardò, che stavano nei campi a 50 centesimi l'ora, a un euro l'ora. Introduciamo intanto un meccanismo, non si va sotto le 7,50 euro, che è la paga, diciamo, contrattuale per chi lavora nei campi. Benissimo. E quindi già questo è un primo elemento: togli gente da una realtà e ti metti a lavorare. Dopo un po', con gli immigrati che costruiscono, che si riconoscono nella produzione della salsa di pomodoro, cioè stiamo parlando di questa unghietta qui rispetto a tutta la quantità di salsa di pomodoro che c'è in Italia, non è importante quanta se ne è prodotta, però per quel collettivo diventa un elemento di, appunto, soggettività, di riconoscimento di sé. A un certo punto che fanno? Decidono di occupare una villa, Villa Roth, e prendono posto 40 famiglie immigrate, trovano 40 immigrati con le loro famiglie, trovano alloggio, quindi escono fuori, il comune riconosce l'occupazione, gli dà l'acqua, gli dà la luce e vivono lì. A quel punto che succede? Che grazie alla loro lotta lì dentro entrano anche 15 famiglie italiane, cioè non immigrate, cioè, grazie agli immigrati sono gli italiani che hanno un diritto. E succede ancora un'altra cosa: avendo l'occupazione, quindi non pagando più l'affitto e avendo anche un po' di lavoretti di qua e là e anche con Sfrutta Zero, molti di questi dicono una cosa: sai che c'è? Io non ci vado più nel campo a 50 centesimi, a un euro, a due euro l'ora. Non ne ho, preferisco stare a casa, non pago l'affitto. Tra di noi ci diamo una mano, mi faccio il lavoretto con Sfrutta Zero e lì al ricatto del caporalato del campo di Pugliese non ci vado più. Cioè adesso è una cosa embrionale, è meramente simbolica, perché alla fine abbiamo, forse riguarderà 50 persone. Però è un meccanismo che noi dobbiamo in qualche modo valorizzare. Cioè quel mutualismo lì ha prodotto una lotta e ha prodotto la possibilità di sottrarsi al ricatto del caporale. E io credo che questo sia fortemente emblematico e fortemente significativo. Credo che questa possa essere, questa cosa è generalizzabile. Del resto, Rimaflo, a cui è dedicato il libro, da che perde tutta quanta la fabbrica e vanno tutti a casa, se oggi vai a Rimaflo e vedi che ci sono 100 persone che ci lavorano, a vario titolo, artigiani, operai, mercatino, eccetera, però 100 persone vivono lì, di tutto il giorno stanno lì, capisci che tu con un mutualismo ti riesci a sottrarre da una dimensione di ricatto e di subordinazione a ricostruire una forza e una soggettività. Quindi questo è un altro aspetto importante. Il mutualismo è conflittuale, ed è conflittuale perché poi costruisce altri strumenti accanto alle cooperative, accanto alle realtà autogestite, si possono produrre associazioni, si possono produrre tante altre cose. Anche un esempio che c'è nel libro, a cui rimango affezionato, le cooperative del pane in Belgio a fine 800. Si producono tonnellate e tonnellate di pane in cooperativa e si toglie in qualche modo agli operai l'obbligo di andarsi a comprare il pane dai panifici, diciamo padronali, eccetera. Quindi con un costo molto ridotto. Ma la cosa più significativa qual è? Che quando i minatori del Borinage in Belgio entrano in sciopero e fanno uno sciopero lunghissimo, dura un mese mi pare, il pane glielo danno quelli delle cooperative e permettono, grazie al rifornimento di 30 tonnellate di pane, di tenere lo sciopero. Ecco, noi abbiamo bisogno di fare mutualismo per avere il pane da dare a quelli che poi fanno le lotte, e di costruire insieme a loro le stesse lotte. Ma c'è terzo punto e finisco, magari poi magari continuiamo a dibattere. C'è un terzo aspetto poi di questa Questo mutualismo, secondo me, è utile, interessante riguardarlo, perché comunque non a caso, nel momento in cui nasce, nel momento in cui si struttura e si consolida, si interseca con una fase feconda di elaborazione culturale e di idee del movimento operaio che sorge. E dal mutualismo, secondo me, viene fuori un'idea che è cruciale oggi, che è vissuta nel corso del Novecento, è stata quasi sempre sconfitta, poi dirò però perché nonostante la sconfitta bisogna continuare a crederci, che è quella che io chiamo la democrazia dell'autogoverno. Cioè il mutualismo con la sua autogestione, con la valorizzazione della solidarietà orizzontale, la solidarietà e il mutuo riconoscimento di lotte e di soggetti in lotta, costruisce gli embrioni di quella che potrebbe essere una società futura e alternativa, basata appunto sull'autogoverno. Guardate, questa cosa può sembrare un po' astratta, può sembrare anche un po' ideologica per certi versi, non lo so, però noi viviamo in una fase ormai di crisi acuta della democrazia che abbiamo conosciuto nel dopoguerra. E a questa crisi acuta, a cui ci si è mobilitati tante volte in varie forme con le mobilitazioni in difesa della Costituzione, non si riesce più a rispondere con la difesa della Costituzione nata nel dopoguerra, per quanto sia sacra, inviolabile e santa, perché non regge più semplicemente la difesa di quella cosa lì. Bisogna andare oltre quella cosa lì, bisogna dare una risposta a chi inizia a capire che la democrazia reale, effettiva, è quella che ti fa partecipare in prima persona, che fa sì che tu non conti in qualche modo e che tu decidi, realmente, e che appunto si interseca e si intreccia al fatto che a un certo punto non c'è più il padrone e la fabbrica o la fattoria te la gestisce e te la governi tu. Questo è l'orizzonte fondamentale da raggiungere. Io non so se è questo che stai dicendo e che se rispondo adeguatamente al problema. È chiaro che se una volta eliminato il padrone ti rimane il problema della fabbrica e ti rimane il problema della fattoria. E non è vero che è risolto il problema. E tutte le esperienze storiche del Novecento si sono infrante su questo problema qui. Cioè nessuno è riuscito a organizzare una società alternativa diversa da quella che pretendeva di abbattere o di sostituire. Ne sono state create delle mostruosità vere, tutto lo socialismo reale è una dimostrazione, ma anche cose generose. Però ovviamente questa fotografia potrebbe dirci che non c'è nulla da fare. E noi, io credo che c'è sempre qualcuno ha il dovere di dire che bisogna provarci e tentare, bisogna tentare delle strade. Io penso che sulla strada dell'autogoverno non tutte le strade sono state esplorate, che ci sono stati errori, tradimenti, insufficienze di analisi, insufficienze di forza anche strutturale, accumulazione primaria di forze per poter sostenere la sfida di quello che veniva imposto dal tempo. Cioè fai la rivoluzione, prendi in mano in qualche modo un paese, una parte di paese, prendi in mano le fabbriche come in Italia nel 20, nel biennio rosso, e poi in qualche modo non riesci a capire esattamente dove devi andare. E vabbè, però quella strada lì però è obbligata, è segnata, non è che ce n'è un'altra. Io non credo che ce ne possa essere un'altra. Noi in qualche modo dobbiamo pensare che il mutualismo e l'autogestione debbono produrre la forza per costruire una democrazia dell'autogoverno basata sulla partecipazione attiva di chi partecipa alla produzione, di chi partecipa all'autogestione, di chi partecipa alla cooperazione. Non voglio fare le battute retoriche sulla forza del 99% contro l'1%, perché in natura il 99% esiste, ma poi non si organizza fisicamente, materialmente, sarà sempre una minoranza che si organizza. Però va bene, l'importante è che ci sia quella minoranza organizzata che prova a portare avanti la sfida. Quindi io credo che la partita che tu poni è tutta quanta aperta, è stata giocata mille volte nel corso del Novecento e molte volte ha perso. Però io sono fedele in qualche modo qua alla filosofia di Benjamin, quella che si basa sulla storia fatta dai vinti, cioè sulla storia basata sulle sconfitte e sui vinti, perché i vinti, quando sono stati vinti, poi chiedono sempre una redenzione, cioè chiedono sempre un risarcimento a quelli che verranno dopo, e quelli che verranno dopo hanno un po' l'obbligo e il dovere di dare un risarcimento agli sconfitti della storia, imparando le lezioni del passato, guardandole attentamente, cercando di capire come si può andare avanti e si può costruire un futuro diverso. In qualche modo il libro ha anche questa ispirazione, lo scrive, lo dice, è citato Benjamin appunto da questo punto di vista, e il codice sorgente del mutualismo ha anche questa valenza: andarsi a riguardare tutta la storia che ha alle nostre spalle, per uscire dalle secche di un dibattito a sinistra che è asfittico e che è irritante e rivoltante, e a volte è più preoccupante di quello che è la realtà contro la quale bisogna battersi, almeno a me mi dà questa sensazione, e bisogna farcela anche con le proprie forze. Il mutualismo in fondo è anche questo, agire da sé, agire in comune e in questo comune trovare una nuova forza collettiva. Ok, si è parlato di movimento operaio e io volevo fare una domanda che si basa sui ragionamenti nati nel operaismo. Quindi si parla di Mario Tronti, di Pansieri, dell'esperienza dei Quaderni Rossi, anche esperienze molto radicate su questo territorio, nelle quali era centrale la questione dell'autonomia e la questione dell'efficacia della formulazione teorica rispetto alla pratica. E già a quei tempi era evidente la domanda: dove sono gli operai, dov'è la classe operaia? Era una domanda che ci si faceva, che Pansieri si faceva. Oggi, dove in un momento in cui le tecniche di sfruttamento del lavoratore sono molto più elaborate, molto più capillari, quali sono le basi per costruire una comunità che sta a monte della possibilità di creare un mutualismo? Una comunità che sta a monte del mutualismo, questo non ho capito esattamente cosa intendi. La classe dei braccianti, immigrati, è una classe molto definita, quindi è molto più facile individuare una comunità attraverso la quale fare del mutualismo. Mentre i lavoratori a casa, dell'era digitale, dove il lavoro da casa è pagato, ho capito. Sì, ho capito, ora ho capito. Il discorso dell'operaismo ha avuto un senso forte, perché ha inserito degli elementi di diversità, nel senso di lettura specifica di alcune categorie, di fenomeni, di una soggettività che fino a quel momento era stata interpretata in maniera piuttosto monolitica. Il fatto di aver scoperto che l'operaio non era solo l'operaio, ma era un operaio di mestiere, e poi in un'altra fase diventa l'operaio massa, c'è questo riconoscimento di questa nuova figura, e poi nel post-operaismo, se vogliamo, con Negri può diventare operaio sociale, quindi inserisce questa capacità di lettura, e direi, poi vabbè, l'esperienza operaista in Italia è stata, direi, piuttosto valida. Ora Tronti, nonostante sia alle origini insomma di quell'esperienza, poi però ha avuto una parabola, come voglio dire, e se vogliamo nel discorso dell'autonomia del politico si inserisce in pieno nel primato del modello tedesco, insomma, e viene acquisito, quindi insomma da questo punto di vista non riscuote tutti i miei favori, ma sì, io penso che occorra un po' uscire da un discorso di mestiere o di attività professionale. Penso che occorra un po' sganciarsi da questo discorso, perché la fabbrica cioè o anche voglio dire il campo coltivato, anche il territorio, la produzione agricola sono diventate ormai diffuse, non, la fabbrica non è più un luogo in cui si concentra un lavoro, non si concentra una produzione, si concentra delle relazioni, si può quindi concentrare anche una resistenza, una formazione alla resistenza, non esiste più questa non esiste, non è un caso che non esista più. Quindi secondo me non deve assumere una dimensione più sociale, più dispersa, e l'aggregazione nuova che si va a costruire, e non la si costruisce secondo me in termini di aggregazione, cioè di costituzione di un nuovo soggetto, perché è un discorso abbastanza astratto. Oltretutto, sul nuovo soggetto a quel punto non dovrebbe avere più a disposizione neanche un'identità professionale che era abbastanza a portata di mano, abbastanza, come posso dire, reale. Abbiamo le stesse mansioni o appartenenti allo stesso ciclo produttivo, in qualche maniera ci possiamo riconoscere. Qui occorre riconoscersi, secondo me, sulla base non dell'espressione del lavoro, e come ripeto è un qualche cosa che ti confina comunque all'interno dell'esistente, ma sulla base di quello che l'esistente, con tutte le capacità di metabolizzazione e ha della soggettività antagonista, che ha espresso, hanno fatto un lavoro enorme, insomma, bisogna togliersi di cappello a quanto sono riusciti a nelle condizioni in cui sono riusciti a ridurci noi e la soggettività antagonista, hanno fatto un lavorone. L'unica cosa su quale non riescano a incidere è il fatto che continuano a riprodurre, perché su questo si basano, continuano a produrre esigenze e bisogni non solo materiali che non riescono ad evadere, perché su questo si riproducono, il capitale si riproduce e si valorizza sull'insoddisfazione di queste esigenze, di questi bisogni. È da lì che noi dobbiamo, è lì che noi dobbiamo intervenire. È naturale che sia così, ma possiamo intervenire perché offriamo delle risposte, non come agenzia che fornisce un pacchetto di soluzioni da acquisire, da presentare, da proporre sul mercato politico in maniera più convincente, no, qualcosa da costruire insieme, da co-costruire con i protagonisti sociali. È una tua esigenza, vai cercando quelli che nella società hanno questo tipo di esigenza e ne evasa come te, e insieme a loro cerchi di costruire un altro tipo di organizzazione, però è un altro tipo di organizzazione. Ti devi porre il problema di fare in un altro modo, di far da sé, no? Come, invece che fare attraverso lo Stato, di fare in un altro modo, perché gli altri sono meccanismi che ti uccidono. Il fatto che tu sia costretto ad utilizzare per qualsiasi tipo di scambio una moneta che è prodotta monopolisticamente e che ti viene conferita a debito, cioè te ti danno 1.000 euro e ne devi restituire 1.000, poi c'è l'interesse composto, ormai non si sa più quante ne devi restituire, è un qualcosa, capito? È folle, nel senso che non facciamone a meno. Non è che non abbiamo la possibilità di farlo, non è che ti scambi euro o dollari, ti scambi qualcosa di reale, di concreto. Il discorso non è così semplicistico, voglio dire, però o noi cerchiamo di organizzare qualcosa e siamo in condizione di poter fare, avviamo qualcosa che funziona in maniera alternativa, o se noi continuiamo a cercare di opporci e di confliggere per mantenere il lavoro, per mantenere il reddito, per mantenere un tempo, uno spazio possibile, noi non ne abbiamo le gambe, perché siamo all'interno di un contesto che rispetto a questi fondamenti, rispetto a questi fondamentali, noi non riusciamo a gestire, non abbiamo nessuna possibilità di gestire. L'euro viene organizzato da chi lo produce, non ne viene organizzata la produzione, ne viene organizzata la scarsità. Noi siamo... o ne facciamo a meno, o noi non ne caveremo mai le gambe da questa, o noi facciamo in un altro modo, o non ne caveremo mai le gambe. Ed è tremendo, ma non perché, voglio dire, l'economia è la struttura e il resto è sovrastruttura, io non credo assolutamente questa cosa qui. Ma Dio, è che noi non si riesca a organizzare la risposta alle nostre esigenze in una maniera diversa. È allucinante, cioè il fatto che in Argentina abbiano avuto campo libero non so più per quanti anni e ne siano riusciti a uscire, e è riuscita ad uscirne con le fabbriche recuperate per riproporsi sul mercato nello stesso modo di prima, semplicemente senza padroni, è una cosa che è difficile capire. Che all'Ilva di Taranto, capito, in una situazione in cui da decenni c'è una mattanza sanitaria, perché questo c'è, va bene, in una condizione in cui le forze repressive e la dirigenza politica è in una condizione, non sa che pesci prendere, va bene, non sa che pesci prendere, perché qualcuno, nella persona della Patrizia Todisco, come si chiamava, era quel giudice, a un certo punto ha rotto l'omertà dei giudici, e voglio dire, in virtù dell'articolo 113-118, vale, quello è la Costituzione che obbliga all'azione penale, i pubblici ministeri, tutti quelli che passavano per le strade andando al lavoro quotidianamente a Taranto, commettevano il reato di non perseguire penalmente, questa cosa era evidente, no? Che non davano corso all'operazione, quindi c'era questa omertà, a un certo punto c'è questa che la rompe, va bene, e dice no, sta storia non può più funzionare, non sanno cosa fare, se vi ricordate, no? Non hanno una proposta, non possono mandare forze repressive contro un'eventuale forte protesta, infatti non la mandano, c'è una città intera, capito, e solidarizza con questa forza lavoro, puoi fare qualsiasi cosa fondamentalmente. Non solo chiedi solo di riaprire la fabbrica, ma nemmeno ti poni un altro problema possibile. Non è che hai fatto una discussione, non sei riuscita a trovare un'alternativa, oppure non si era d'accordo, alla fine non siamo riusciti a quagliare, e poi sai, c'è di nuovo, oh, che cazzo, chiediamo la riapertura della fabbrica. No, si è chiesto quello e basta, solo, perché non si riusciva a immaginare nient'altro. Cioè, voglio dire, queste sono cose... capito? No, dove si vuole andare noi in queste condizioni? Cioè, che cosa si pretende di proporre se non si riesce ad affrontare sto nodo? Scusate l'intemperanza. Passionale. Pesa a cuore. No, io, se capisco bene, dici, ma i soggetti reali, no? Quali poi, cioè, dov'è la classe oggi, se questa è la cosa? Ma io credo che ormai abbiamo... Intanto non abbiamo, facciamo fatica a trovare i termini giusti, perché allora la classe, la moltitudine, la forza lavoro, direi che ci siamo un po' ormai tutti un po' abituati, se appena approcciamo al problema, che c'è una composizione veramente molteplice del lavoro o di questa soggettività che facciamo fatica a definire. Ed è molteplice non solo perché è spezzettata, ma perché ognuno di noi... Perché ormai le dimensioni anche della soggettività sono diverse, cioè noi siamo, se lavoriamo, siamo quello che facciamo quando lavoriamo, ma siamo anche quello che consumiamo, siamo uomini e siamo donne, o abbiamo identità sessuali, quelle che ci pare, possiamo essere bianchi e neri, immigrati e non immigrati, cioè la nostra soggettività è davvero multipla e si interseziona nel modo in cui si esprime, e questa credo che sia un'acquisizione ormai... che è sempre più appresa, e non si può più ragionare in termini classici come si è ragionato nel Novecento, la classe operaia, questa roba qui, evidentemente andiamo avanti. Il mutualismo come si relaziona a questa molteplicità? Perché dici, tu, se ho capito bene, dici, beh, i braccianti immigrati della Puglia fanno mutualismo in un certo modo, ma poi in generale... Tra le esperienze che vengono citate nel libro ce n'è una che è a New York, la Freelancers Union, ed è una struttura, associazione sindacale di 350.000 iscritti che grosso modo lavora con un'app per cui mette in relazione tutti i freelancer che circolano in città, sostanzialmente nello Stato, e li mette subito in relazione con, ovviamente il sistema americano non è l'Italia, quindi li mette subito in relazione non con un sindacato ma con gli avvocati. perché quando questi non vengono pagati o vengono pagati diversamente da quello che era stata la pattuizione, scatta subito l'azione legale, che in America è una cosa piuttosto seria, come si vede da tutti i legal che ci guardiamo in TV, eccetera, eccetera. Però lì funziona con la gestione degli avvocati. Quindi, quindi cosa si fa a fare? Si va a organizzare un settore di questa moltitudine o classe o forza lavoro che non c'entra nulla con il bracciante migrante. I Wobblies, no? gli IWW, introdussero una forma di lotta che poi non è mai stata estesa a livello generale, ma era molto importante. Cioè, quando c'era un diritto da difendere, si spostavano in massa, quando c'era una fabbrica da difendere o una lotta da vincere, si spostavano in massa in una direzione, in una località, e lì stanziavano fino a che non ottenevano il risultato. Negli anni 90 un'associazione americana che si chiama Job with Justice, che avrebbe un certo ruolo nel movimento antiglobalizzazione di fine anni 90 e primi anni 2000, aveva introdotto quest'altra, aveva recuperato questa vecchia pratica e l'aveva identificata con adotta una lotta. E quindi quando te sei precario, lavori in quella realtà, magari sei da solo, se hai un'associazione mutualistica, se hai un momento, una realtà che ti può supportare, viene con te e ti viene a difendere, e poi tu metterai a disposizione, magari costruendo una banca del tempo, della lotta, metterai a disposizione le tue energie per andare a difendere il diritto suo nell'altra realtà. Cioè c'è una sfaccettatura, ci sono elementi diversi che possono essere utilizzati. Credo che il principio qual è? È il meccanismo di costruire una identificazione del sé, del noi, rispetto alla controparte o alle varie controparti, e trovare strumenti che di volta in volta possono essere utilizzati. La cassa di mutuo soccorso, che è una roba straantica, però è ancora oggi fuori mercato, c'è la cassa di mutuo soccorso, aiuta e può aiutare diverse realtà quando ne hanno bisogno, non solo per comprare il trattore di una singola lotta, ma come anche qui è venuto a Bari, sono bravissimi per difendere la lotta di una fabbrica che stava per chiudere, devono fare i picchetti, devono fare lo sciopero, e gli hanno garantito con la cassa di mutuo soccorso la possibilità di sostenere lo sciopero, perché lo sciopero ovviamente per chi può farlo però costa molto. Quindi c'è una sfaccettatura nella ricostruzione della esperienze di fine Ottocento. Nel libro vengono citati, grazie a un lavoro che ha fatto un sociologo italiano che è morto, Pino Ferraris, e che viene ampiamente recuperato, il lavoro che viene ampiamente recuperato, ci sono due realtà particolari con il nome che sono il Partito Operaio Italiano e il Partito Operaio Belga. Il Partito Operaio Belga di fine Ottocento, quello delle 30 tonnellate di pane, elabora una costruzione che viene chiamata all'epoca sindacalismo a insediamento multiplo. Cioè il mutualismo e l'attività politica sociale, perché quel partito è un partito ma in realtà è basato sostanzialmente sull'attività sociale, ci si aggrega nel partito per società di mutuo soccorso, non per adesione individuale, e non si partecipa alle elezioni sostanzialmente, quindi è un partito sociale se vogliamo da quel punto di vista, ma insomma solo per elabora questa idea del sindacalismo e insediamento multiplo proprio per dire il nostro intervento, il nostro lavoro deve essere composto da realtà diversificate tra loro a insediamento multiplo, appunto la cooperativa, la società di assistenza, ma anche l'associazione sindacale che ci difende, ma anche l'organizzazione più generale, possiamo decidere in una data situazione anche di presentare una lista a un'elezione oppure no, cioè multiplo. E questo credo che sia anche un altro elemento che può essere tratto. Siamo in una realtà così diversificata, così spezzettata e così ormai frantumata, che ha bisogno di costruire una fisarmonica di strumenti, cioè degli strumenti a fisarmonica adattabili a seconda delle situazioni. Questo credo che sia anche un altro insegnamento, e non possiamo assolutamente pensare che la tematica del mutualismo possa alimentare e costruire una sorta di partito del mutualismo, perché davvero sarebbe mortifera come prospettiva. Secondo me non è la prospettiva che può essere interessante. Penso più a una realtà di tantissime voci diverse, autonome tra di loro, tarate sulle proprie soggettività, che si mettono in rete, che si mettono in una connessione costante e permanente, anche lì solidale, che è quello che in qualche modo alcuni stanno già cercando di fare, ma che insomma è un lavoro che sarà lungo e che si dovrà basare su delle realtà, perché ecco, questa è un'altra cosa che su questo, diciamo, concludo questa risposta. Questa è un'altra lezione che in qualche modo viene da quel tempo e viene dall'oggi. Una volta si faceva politica andando in giro a parlare. Ora, se tu parli, non ti ascolta più nessuno, perché non ti crede più nessuno. Se vuoi essere creduto, devi fare. Se fai, puoi avere la credibilità di dire delle cose. Se invece vai solo in giro a dire delle cose, fai fatica, perché diciamo di cose dette sono state dette troppe nel corso di decenni, e spesso sono state disattese. Bisogna prima farle le cose, l'agire in comune, l'agire da sé, e poi spiegarle per poterle in qualche modo difendere e affermare. Io credo che questa è il cambio di passo che ci attende, che ci serve e che in gran parte è già in atto, non è che è una scoperta, e che anche questo deriva in qualche modo da quella lezione antica che può esserci utile ancora oggi. Ok, che Salvatore deve prendere un treno, forse c'è spazio per un'altra domanda. C'è qualche domanda dal pubblico? Mi interessava sapere ora da quest'ultima cosa che hai detto sul far rete, sul organizzarsi a livello più ampio, partendo ovviamente dalle realtà presenti sul territorio, su chi pratica il mutualismo conflittuale. E in fondo al tuo libro fai una rassegna di molte realtà che da Mondeggi, Rimaflo, Rosarno, che hai citato. Intanto fra queste, appunto, come citavi di Rosarno, quelle che stanno lavorando maggiormente, che stanno producendo sia a livello oltre che nella pratica quotidiana del mutualismo conflittuale, anche a livello teorico, strumenti per, come fra l'altro il tuo libro, per poter riflettere e portare avanti sia il discorso teorico sia appunto quello pratico, e poi se cosa si sta muovendo a livello nazionale o internazionale per mettere in rete queste esperienze, mettere in rete, creare una solidarietà che travalichi i confini delle singole comunità o delle singole soggettività che ci sono. Volevo fare un ultimo favore. No, no, ma questo va bene anche concludere così, perché a me sembra... non è facile, nel senso che mi sembra che c'è un'attenzione molto molto forte ormai da diverso tempo su questa tematica e in maniera molto diffusa, e credo che una mappatura, probabilmente il prossimo libro sarà la vera mappatura, la più ampia possibile, di quello che esiste, perché ogni tanto si scoprono realtà che in maniera proprio embrionale o anche episodica si mettono insieme e cercano di, per esempio, si fanno la cassa di mutuo soccorso. È successo a Roma 2 mesi fa all'Istat, e il collettivo di precari che aveva fatto una vertenza per poter vincere si è costituito in una struttura, un'associazione, e ha messo nello statuto, intanto, che non è il classico sindacato con le strutture, i dirigenti eccetera, ma è tutto, insomma, l'assemblea, una forma consiliare e non verticistica, ma soprattutto ha messo, invece della quota sindacale, ha messo la quota per la cassa di mutuo soccorso, da poter utilizzare non solo per i dipendenti e i membri del collettivo, ma poterla utilizzare anche in prospettiva di solidarietà ad altre strutture, sperando poi di riceverne in cambio solidarietà reciproca. Quindi piccole cose che germogliano. Noi abbiamo fatto un convegno a Roma al 7 e l'8 aprile, molto partecipato, da 35 o 40 realtà nazionali, solo quelle che sono potute venire, e ci siamo dati come obiettivo quello di iniziare a costruire in maniera molto reticolare, molto orizzontale, una sorta di carta del mutualismo, una sorta di manifesto, qualcosa che possa essere anche utilizzato per l'azione politica, non solo per elaborare dal punto di vista delle idee o dal punto di vista teorico, ma che abbia anche rivendicazioni e quindi anche mappare le rivendicazioni. Penso per esempio alla carta di Mondeggi e al lavoro che ha fatto Mondeggi con l'ex asilo Filangieri sugli usi civici, quindi su quella modalità di rivendicare il diritto a esistere come, o come entità, perché lui non siede associazione, è stato sempre rifiutato di fare l'associazione. Penso all'ex cavallerizza di Torino che sta facendo un lavoro del genere. Ci siamo andati appuntamento a fine giugno proprio a Mondeggi, all'anniversario, al compleanno di Mondeggi, adesso poi loro ci diranno quando collocheranno questa sessione, però in un appuntamento il più ampio possibile, il più variegato possibile, per metterci intorno a un tavolo e capire quali sono i punti che ci possono trovare insieme e quale possa essere una carta di rivendicazioni che ci possa iniziare a impostare delle lotte in comune. Questo ecco una cosa che sta avvenendo. A livello internazionale un'altra cosa che sta avvenendo è che probabilmente, sempre come rete fuori mercato, organizzeremo, probabilmente perché non è ufficiale, però si è già impostato il lavoro, il terzo incontro europeo delle fabbriche recuperate si svolgerà alla Rimaflo a Milano nel marzo del 2019. E quella è una rete internazionale che pure ha fatto del lavoro molto difficile. Si è basato sull'esperienza delle fabbriche recuperate argentine, che viene citata qui nel libro, e c'è anche qui fuori un libro sulla fabbrica recuperata argentina che racconta quell'esperienza lì, ed è forse la più avanzata dal punto di vista del mondo del lavoro e di chi ha perso il lavoro per cercare di costruire un'alternativa. Io non vendo pentole, come dire, cioè, non lo so, io non lo so se questa cosa funzionerà, se ci darà le possibilità o meno. Credo valga la pena costruirsi tutti gli strumenti possibili che abbiano anche un senso e che abbiano un'efficacia in qualche modo nell'immediato e che anche rendano il fare politica un qualcosa anche di vitale, che mettano la vita dentro il fare la politica, perché per troppo tempo, io poi purtroppo c'ho un'età e ho fatto politica e anche in maniera scissa tra la vita e la politica stessa, e quindi sono molto, diciamo, fiducioso che questo tipo di esperienza possa germogliare, possa germinare, lasciare sul terreno qualcosa. Poi magari evolverà, perché la realtà è fatta anche di questo, è dialettica, è conflitto, è mutamento, quindi quello che stiamo costruendo magari poi si evolverà in qualcos'altro, costruirà dell'altro, però da qualche parte bisogna anche smuovere le acque, mettere in moto un passo che vada in qualche direzione. E quindi il mutualismo nelle modi più ricche possibili, come spero di aver cercato di descrivere questa breve esposizione, in tutta la sua anche ricchezza di vitalità e di realtà che producono, non solamente che riflettono e che pensano, può essere uno strumento per andare in quella direzione, e poi sta a noi come lo riempiamo, come lo facciamo vivere, se questa cosa succederà o meno. Alla fine sta a noi. Se è per dire insomma giusto qualcosa, ora rispetto all'ultima domanda che era stata fatta, mi sono lasciato tanto per cambiare, trascinare, no? Ma lui poneva una domanda a cui ho risposto per modo di dire. Diciamo che in relazione a quanto detto stasera e a quanto ho delineato prima, quindi il discorso della nuova soggettività, credo di una soggettività implicabile in un progetto altro, debba lasciar perdere completamente tutte le delineazioni che ci sono state finora. Una proposta politica di una critica antisistema, insomma, a mio parere non può uscire dalla individuazione sperimentale di risposte a esigenze reali, che sono esigenze reali, quindi sociali in generale, non dello specifico del lavoratore occupato piuttosto che del femminismo. Tutte queste realtà interconnesse, ma sono risposte generali. Cioè, nel senso, abbiamo un problema di connessione relazionale tra le persone perché siamo isolati. Bene, dobbiamo trovare qualcosa che sperimentalmente inizi, avvii una risposta a questo problema. Abbiamo, c'è una diffusa, un diffuso impoverimento sociale, dobbiamo trovare un altro tipo di una soluzione antisistema sperimentale da avviare e da costruire insieme a, a quei protagonisti. Al di fuori di questo, purtroppo c'è solo, secondo me, ideologia e c'è una reiterazione di un ulteriore fallimento. Cioè, fallimento, nel senso di un ulteriore. No. Usa un'altra parola per chiudere, ma noi siamo ottimisti che ce la faremo. Ma lui è ottimista e ce la faremo. Non chiudiamo un fallimento. No. Allora, grazie ancora a Salvatore, grazie a Francesco. Il libro Mutualismo, Ritorno al futuro per la sinistra, edito da Alegre, lo trovate al banchino qui nella sala, nel salotto. E grazie ancora a tutto.